celebriamo, celebriamo questa musica, questa agisum, questa disco, discoteca, disco e energia, questa notte balla balla questa melodia, celebriamo questa discoteca, celebriamo questa disco, discoteca, celebriamo questa discoteca. La magia, mani, mani.